dato del terzo trimestre era stato salutato come un dato positivo anticipato dalle stime mensili, proprio perché la stabilità del tasso di disoccupazione unita all'arresto della caduta dell'occupazione sembrava indicare che eravamo arrivati in qualche modo a un limite e che la ripresa economica potesse in qualche modo invertire queste tendenze. Il dato di ottobre, che segnala questo aumento del tasso di disoccupazione, è in gran parte dovuto all'aumento della presenza sul mercato del lavoro delle persone. Infatti il tasso di presenza sul mercato, il tasso di attività è anch'esso aumentato di 3 decimi. Cosa vuol dire? Che evidentemente con qualche nube forse diradata, non in senso meteorologico ma in senso economico, più persone si stanno offrendo sul mercato del lavoro, alla ricerca del lavoro, mentre prima erano scoraggiati. Quindi in realtà aumenta il dato anche perché ci sono più persone che rientrano in quelli che cercano lavoro ma non lo trovano, capito bene? Esattamente, è proprio così. E infatti il segnale è particolarmente forte nel nord, che aveva avuto invece un calo dell'occupazione particolarmente pronunciato, soprattutto tra i giovani, proprio nella fase più dura della crisi ciclica.